Ascolto musica che non mi piace, che frequento locali in cui non vorrei mai neanche entrare. Ma niente, sono niente, cos'altro dovrei fare per farmi un po' considerare? Credo seguire il consiglio che tutti mi danno, lasciare stare. In fondo più di tante altre non sei speciale, ma come faccio a farmene una ragione? Profumo mi fa andare nel pallone. So per certo che con te non cambierà la storia, non cambierò per niente, ma non sarei più triste di svegliarmi da un bel sogno. Basti tu per rendermi la pace. Perché sei di valore inestimabile, cara, guarda a che punto sono arrivato, pensando anche di farmi odiare. Pur che tu possa provare qualcosa per me, meglio l'odio che l'indifferenza. Pazienza, farò senza. Il fatto è che dovrei piantarla di pensare certe cose. All'evidenza non è amore, semplice ossessione. So per certo che con te non cambierà la storia, non cambierà per niente, ma non sarei più triste di svegliarmi da un bel sogno. Basti tu per rendermi la pace. Svegliarmi da un bel sogno. Batti tu